Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è Italia in controluce, l'edizione di quest'oggi 24 giugno. Prosegue fino a domenica la Lamezia Terme, Trame, la letteratura contro la mafia, un festival che raccoglie le nuove voci contro le cosche. Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione al microfono di Jacopo Matano, racconta qual è il destino di questo straordinario organo di informazione contro le mafie dopo la recente scomparsa del suo fondatore, Roberto Morione. La Libera Informazione è una fondazione che è stata costituita nel 2007 da Libera, è sostanzialmente l'idea, il progetto che sul versante dell'informazione si possa e si debba costruire una rete sul modello proprio di quello che Libera ha fatto con le associazioni. Questo sul versante del giornalismo, cercando di mettere insieme le testate, i giornalisti singoli, i freelance, i blogger. Noi siamo abituati a leggere o a vedere in televisione spesso e volentieri del latitante arrestato, degli affari delle mafie. Noi abbiamo cercato di dare conto anche di questo tramite il portale che si può trovare all'indirizzo liberainformazione.org, ma anche e soprattutto di dare voce a quei tanti giornalisti che magari vengono censurati, a quei blogger, a quelle radio locali che non hanno la capacità di arrivare a livello nazionale, cercare insomma di rilanciare il positivo, perché siamo convinti che questo nostro paese abbia bisogno di buone notizie. E proprio attraverso il lavoro svolto dai vostri giornalisti sul campo, attraverso i dossier regionali che Libera Informazione ha pubblicato nel corso di questi anni, siete stati tra i primi a portare alla luce a livello giornalistico le infiltrazioni mafiose in quei territori inaspettati, come ad esempio le regioni del nord. A che punto siamo? Noi abbiamo rilanciato l'allarme soprattutto nelle regioni del nord, perché ci siamo resi conto da questo giro che con Roberto Morione, il nostro direttore che ci ha lasciato un mese fa, questo giro che stavamo facendo in giro per l'Italia, soprattutto al nord, mostrava quelle crepe nel sistema dell'informazione, nella coscienza pubblica collettiva, dietro le quali si vedeva appunto l'emergere di una presenza mafiosa, di una criminalità organizzata in forma radicata, in forma stabile, tanto che appunto oggi i magistrati e le commissioni antimafia parlano di colonizzazione, non parlano più di infiltrazione. Oggi siamo al punto che questo dato, che allora lanciavamo in qualche maniera in modo solitario, è un dato condiviso. Non si risolve il problema negandolo, ma anzi affermando la presenza delle organizzazioni mafiose non si fa un torto alla città, alla regione. Abbiamo pieni libri di sindaci, di presidenti delle regioni che hanno detto che lì la mafia non c'era e poi sono stati smentiti dalla storia. Quello che serve invece è una presa di coscienza collettiva, anche perché su questa battaglia, così come Libera insegna e Libera Informazione poi continuato a fare, c'è bisogno del contributo di tutti. Un mese fa, lo dicevi tu, la scomparsa di Roberto Morione, dopo il grande giornalista che in molti stanno ricordando in questi giorni, cosa vuole essere Libera Informazione? Un network, un portale per i giornalisti che non hanno voce in capitolo, come dici tu, o un archivio per l'antimafia, per le storie e l'informazione che parlano di mafia? Direi che le definizioni che tu hai dato sono tutte calzanti per Libera Informazione, anche perché solo le indicazioni, le direttive lungo le quali corrobora in questi quasi 4 anni di lavoro insieme avevamo sperimentato. Quindi io mi auguro, domani abbiamo il primo consiglio d'amministrazione dopo la scomparsa di Roberto, che chi prenderà in mano il timone sappia condurre la barca in quella direzione. Dovremmo fare un gioco di squadra, questo è chiaro, perché non si sostituisce Roberto con una singola persona, per quanto eccezionale possa essere. Dovremmo fare quel gioco di squadra che lui ci invitava a fare per superare le difficoltà, e quindi quello che lui faceva, le doti che su di sé era in grado di mobilitare anche in termini di consensi, di partecipazione, dovremmo essere in più persone a farcene carico, perché questa è l'unica possibilità che abbiamo. Presto, credo già dalla prossima settimana, saremo online con il nuovo sito, i progetti che abbiamo di informazione con alcune regioni del nostro paese, l'archivio. Abbiamo fatto proprio la settimana scorsa un incontro nell'ambito del Premio Alpi con la rete degli archivi per non dimenticare, quella rete cioè che mette insieme i tanti soggetti, le tante realtà associative che si occupano di fare memoria nel nostro paese. Ecco, con tutte queste realtà, con l'USIGRAI, con l'articolo 21, con l'FMSI, continuare sulla strada tracciata da Roberto, perché il lavoro di sicuro non manca. Pietro Comito è uno di quei giornalisti calabresi minacciati dalla 'Ndrangheta, di cui nessuno parla mai. 31 anni, capo servizio della redazione di Bibo Valentia del quotidiano Calabria Ora, è stato minacciato molte volte dalla 'Ndrangheta. Racconta Jacopo Matano che una volta un boss gli si è addirittura seduto vicino durante un processo. Beh, ho iniziato a fare il giornalista da circa 10 anni. La mia prima esperienza è stata al quotidiano della Calabria come collaboratore esterno, e da lì poi ho iniziato a seguire, grazie anche alle direttive impartite da un vecchio marpione del giornalismo locale, la cronaca giudiziaria, che molto spesso non era adeguatamente attenzionata dagli organi di stampa tradizionali. La tua storia, quindi, come quella di altri colleghi calabresi, è quella di un giovane giornalista che tenta di entrare all'interno di quello che il procuratore Pignatone ha definito il cono d'ombra dell'informazione in terra di 'Ndrangheta. Quel cono d'ombra che probabilmente andrebbe ricondotto a qualche anno addietro e non soltanto adesso. È un'emergenza che purtroppo, ai noi, si registra da 15-20 anni e forse anche più. E in questa emergenza non c'è soltanto il silenzio dell'omertà, perché poi quando si comincia a scrivere delle indagini, dei processi, arrivano anche le minacce. Cosa ti è successo? Beh, la prima volta mi sono occupato della crescita di un gruppo di giovanotti che in sostanza andato a prendere le redini di un casato mafioso. Ho ricevuto una telefonata in cui mi si annunciava: stai attento perché ti tagliamo la testa e ti facciamo altre cose poco gradevoli, ecco. Poi l'ultima, lascio da parte gli intermezzi, l'ultima è stata recentemente con una lettera in cui mi si annunciava insomma di essere impiccato nella piazza del mio paese, di modo che gli sbirrazzi come me, così li definivano gli estensori anonimi di questa missiva, avrebbero potuto vedere che fine avrei fatto per aver parlato un po' troppo riguardo il condizionamento mafioso che una determinata famiglia esercitava su un ente pubblico. Questi segnali intimidatori ti hanno preoccupato seriamente? Ti hanno realmente fatto pensare che avresti dovuto smettere di scrivere? Ma non è questo, diciamo, la cosa che più mi preoccupa. Allora soprattutto ho avuto grande sostegno. Per un periodo ci sono stati un po' tutti i cronisti di nere e di giudiziaria che hanno firmato i miei pezzi, quindi immaginate cosa significa trovare su un foglio di giornale un articolo e poi 10-12 colleghi che lo firmano, per dire il nostro collega non è solo. Il problema qui è un altro, il problema è che qui noi facciamo una vita particolare, cioè stiamo da questa parte del nostro bianco e rosso, insieme ai familiari delle vittime, insieme magari a qualcuno che ha fatto da vedetto, da palo per quell'omicidio, e siamo vulnerabili. È accaduto che non più tardi di 2 settimane fa un altro omicidio, il fotoreporter di Gazzetta del Sud è stato brutalmente aggredito da uno dei picciotti del boss ucciso. Potremmo citare per esempio l'essere in un'aula di tribunale, avere il boss del quale tu scriverai il giorno dopo seduto accanto. È quello che è capitato a me, cioè io ricevo una minaccia da una determinata cosca, mi vedo il boss di questa cosca a piede libero, si siede vicino a me nel seguire l'udienza in cui lui stesso è imputato. Perché poi il giornalista calabrese che si occupa di questi fatti non è lontano centinaia di chilometri, ma è proprio lì, nell'ambiente che descrive, con il boss che gli siede accanto. Ecco, appunto, parlando dell'ambiente, vi sentite soli anche nei confronti delle persone che vi circondano, dei vostri concittadini? L'ho ricevuto ondate, centinaia, migliaia forse di attestati di solidarietà, è un fatto positivo. Il problema è che poi la solidarietà verbale deve diventare anche solidarietà sostanziale. Non possiamo pensare di dover scrivere, raccontare l'infiltrazione in un comune quando poi il sindaco dal quale si riceve l'attestato di solidarietà scopre da intercettazioni telefoniche, servizi di OCP o anche servizi nostri di indagine sul territorio, perché a noi a volte bastano anche gli occhi, sia stato tra virgolette portato alle elezioni da determinati ambienti. Qui nessuno pretende che il cittadino un giorno si svegli e possa pensare ad una rivoluzione culturale che possa condurre da solo. C'è tanta voglia di libertà da parte di tanti cittadini per bene che hanno il diritto di non essere eroi, però chi si assume l'onere di guidare le comunità, chi si assume l'onere di amministrare, chi si assume l'onere di indossare una casacca di tipo istituzionale deve dare l'esempio. Italia in controluce era la seconda edizione, vi ha parlato Daniele Biacchessi. Siamo su Facebook, Twitter, via mail controluceradio24.it. Torniamo lunedì alle 6:30 su Radio 24.